festival che è giunto alla seconda edizione. Abbiamo iniziato lo scorso anno con questa call internazionale rivolta a giovani e non giovani fotografi, professionisti e non, sulla fotografia sociale e documentaria. Quest'anno, oltre al bando per i nuovi fotografi, avremo tante iniziative con mostre, incontri e workshop, a partire da un incontro con Fausto Podarini, un bravissimo fotografo italiano premiato anche con il WordPress Photo, ad un'iniziativa che si terrà alla BA la domenica 4 febbraio con una mostra Liberi Tutti, che è stata una campagna promossa da UJ per i ragazzi ingiustamente incarcerati dopo il G20 in Germania, e quindi avremo questa mostra con delle foto che sono state mandate da autori da tutta Italia, un incontro dove si parlerà dei temi legati alla comunicazione riguardante manifestazioni e alla situazione specifica, all'episodio specifico che è capitato ai ragazzi. In più tanti corsi sempre sulla fotografia documentaria e sociale. In particolare nelle mostre sono 5 lavori diversi, giusto? Le mostre poi saranno, sì, 5 lavori diversi, che sono le 5 mostre, sono il premio, il risultato del bando che abbiamo lanciato in autunno. I luoghi in cui si svolge il festival? Il festival si svolgerà in Sant'Isaia, presso QR Gallery. Lì ci saranno le cinque mostre vincitrici del bando, mentre poi avremo la mostra Liberi Tutti, che sarà alla BA la domenica, e poi avremo ancora un'altra mostra che sarà presso il Circolo Arci Caserme Rosse su Bologna Collettiva, che è una mostra di tutto quello che è avvenuto a Bologna durante lo scorso anno e che riguarda 26 autori. Poi anche per quanto riguarda i workshop, si terranno sempre in Sant'Isaia presso quel. In un mondo in cui i social media hanno preso il loro spazio e modificato anche il modo di fruire della comunicazione, dell'informazione, quanto è importante la fotografia? La fotografia, diciamo che è centrale la sua presenza nei social media, però dal nostro punto di vista, insomma, per il lavoro che facciamo noi rivolto al fotogiornalismo, quindi più alla fotografia come informazione ed approfondimento, invece ne viene mortificato quasi il ruolo della fotografia, perché parliamo sempre di più di un'informazione che rimane in superficie, un'informazione veloce, un'informazione superficiale, un'informazione delle volte poco controllata, si parla molto infatti di fake news, e anche per quanto riguarda l'uso proprio personale, no? Se pensiamo all'uso dei giovani che fanno anche delle proprie immagini, è un ruolo abbastanza ambiguo, su cui anche noi del settore ci confrontiamo spesso e dobbiamo interrogarci sull'uso e consumo dei social. Sappiamo anche che nel mondo editoriale le cose non vanno benissimo per quanto riguarda appunto il lavoro, perché si considera quasi la fotografia non un lavoro. Questo è una considerazione storica, da sempre in Italia il fotografo è quello che schiaccia solo un bottone, quindi non ha bisogno di grandi riconoscimenti. Purtroppo sì, il mondo editoriale non va benissimo e noi ne siamo una testimonianza. Noi come Witness Journal produciamo una rivista di fotogiornalismo da 10 anni, abbiamo pubblicato 95 numeri con oltre 800 reportage pubblicati, il tutto gratuitamente, e tutto il lavoro che facciamo noi è volontario. Anche il solo far passare il messaggio di associarsi, di tesserarsi all'associazione per poi far fruire a tutti gratuitamente di una rivista indipendente che non prende fondi da nessuno è un discorso molto complicato, però noi anche Closer va in questa direzione, continuiamo il nostro lavoro appunto per prima di tutto formare una cultura fotografica dell'informazione indipendente in Italia. Però c'è un interesse per il reportage fotografico, un'informazione che non sia mordi e fuggi? C'è un interesse altissimo tra gli appassionati anche, sono un numero incredibile di giovani che cercano di avvicinarsi al reportage e cercano poi di trovare lavoro al reportage. Quello che invece manca, è insomma un lavoro lungo da fare, è quello appunto di preparare, di allargare le conoscenze legate alla fotografia di documentazione, quindi al reportage, quindi alla cultura fotografica, dare sempre una base maggiore nel nostro paese.